140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Excelsior, Venezia. È il papà del signor Rossi e di 55 anni di animazione italiana. A Venezia un documentario su di lui, di Marco Bonfanti, Bozzetto non troppo. Bruno Bozzetto. A primo di tutto l'effetto è stato perché, cioè cosa c'è da dire su di me. C'è tanta gente che fa delle cose meravigliose, perché io? Non lo so, continuo a essere stupito, il documentario mi ha stupito più di tutti. Continuo a dire, ma chi va a vedere un film su di me? Chi? Cioè proprio non lo capisco. Se andranno mi ricrederò e dirò come mi è successo con Westin Soda. Quando ho fatto Westin Soda io sono stato per una settimana fuori dal cinema a controllare che la gente entrasse. Non ci credevo. Non è possibile che uno paghi un biglietto per vedere una cosa fatta da noi che ci stavamo divertendo. Ed è successo. E quindi forse la vita è anche questa, è credere alle cose perché si lavora duramente per ottenerle e non credere poi che la gente venga dietro a noi. Cioè è proprio, sono i fatti che devono convincerci che è così, ma sono, mi definiscono pessimista comunque, quindi forse è la mia particolarità. E nel film si mostra anche la sua casa, popolata anche quella di un mondo particolare. Sì, ma noi amiamo molto una meravigliosa lucertolina lì, piccolissima. No, dicevo che gli animali, tutti noi in famiglia per fortuna, sia mia moglie che i miei figli, li amiamo. Io amo l'animale per una cosa, soprattutto perché, primo perché non parla e quindi deve comunicare tutto attraverso gli occhi, e con gli occhi veramente mi dice tutto. Poi perché amo la loro semplicità, il loro vivere il momento attuale, cioè loro non sanno cosa succederà tra due minuti, e questa è forse anche una loro forza. Ieri ragionavo e dicevo, ma se l'Homo sapiens invece di diventare sapiens fosse rimasto Homo, non era meglio? Pochi istanti fa ho visto una lucertolina passare e lei riesce a cogliere il bello e le idee dappertutto. Ma il bello c'è. Noi siamo in mezzo al bello, è il fatto di vederlo, ma più che altro di avere il tempo di vederlo. Oggi la vita ci porta via la cosa più importante ed è il tempo. Oggi con i telefonini e con quello che succede bruciano tutto, cioè non ci sono mai attimi di pausa, invece sono le pause quelle che permettono di crescere, di vedere, di osservare. Da quella lucertolina che ho visto adesso, anni fa era nato uno dei miei primi film dal vero, che era Filo d'erba. Cioè mi ero accorto che mentre noi parlavamo tranquillamente lì sotto c'erano combattimenti e lotte per la vita, per la sopravvivenza. E allora sono passato dalle persone al prato e ho fatto vedere questo mondo che c'era a due passi. Poi al cineclub mi dicevano, sei stato bravo perché c'è gente che per fare questi film va al safari in Africa, va in Australia, tu l'hai fatto nel giardino di casa tua. Dico sì, guardate che il bello c'è dappertutto. Amo il cinema, l'ho sempre amato fin dall'inizio. Facevo dei film, cioè facevo lavorare un po' tutti come attori e le vacanze diventavano lavorative anche per loro. Loro parlano con gli occhi, non hanno le parole, ma dicono molte più cose con gli occhi e con lo sguardo. Il tè è mio, non me lo bevi. Un sogno ricorrente, quello di volare. Io penso che l'umorismo sia fondamentale. Ho sempre guardato con molto sospetto le persone che non hanno il senso dell'umorismo. Oddio! Lei Lei ha parlato della tecnologia. Che effetto le fa il fatto che, ad esempio, su YouTube o anche sui social network tutte le sue opere vengano citate, riprese, riviste anche dai più giovani che magari non sanno chi è Bruno Bozzetto? Ma questo fatto dei giovani mi fa molto piacere, perché è un pubblico che evidentemente non mi conosce, e vedere che scoprono questi lavori e li apprezzano è bello, dopo tanti anni è bello. Dall'altro lato trovo che questi mezzi siano un po', sono affascinanti ma un po' dispersivi, e soprattutto spingono troppo alla velocità e alla superficialità. Cioè, credo che l'attenzione di una persona oggi non arrivi al minuto. Se vede un programma, se entro un minuto non l'ha preso, lo abbandona. E questo è un po' triste, cioè manca la concentrazione, il tempo di... Però questo fa parte della nostra vita. Concludo ringraziandola, perché la mia generazione, grazie a lei, ha tutto un immaginario che altrimenti ci sarebbe stato estraneo. Un immaginario bellissimo. Grazie. Mi fa piacere di aver lasciato un ricordo interessante, divertente, e spero anche utile, perché ad esempio con tutti i film con Piero Angela abbiamo parlato anche di informazione, di divulgazione scientifica. Quindi ecco, mi è piaciuto spaziare in tanti lati, dal lungometraggio alla pubblicità, ai film divulgativi, ai cortometraggi, perché sono tutti mezzi di comunicazione, giusto? E poi il disegno, dai, è quello che dice Piero Angela, che è il mezzo di informazione più immediato e più memorizzabile che esista. Quindi ho la fortuna di averlo, teniamocelo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Bruno Bozzetto. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.